Una rete di associazioni femministe del terzo settore ieri ha incontrato il sottosegretario agli affari esteri Benedetto Della Vedova, sottolineando la necessità di mettere in sicurezza e offrire sostegno alle donne afghane dopo la presa del potere dei talebani. Tra le associazioni c'è anche l'associazione Orlando. Noi siamo al telefono con Samantha Picciaiola, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Ti chiedo di raccontarci un po' di questo incontro, ma soprattutto da cosa è stato mosso. L'incontro nasce da un'iniziativa duplice, nel senso che in queste ore sono partiti due comunicati promossi da una rete di associazioni di donne. I due comunicati poi si sono congiunti, il numero di adesioni è stato altissimo e sono dei comunicati che sono sorti un po' da quelle che erano le prime notizie che arrivavano dall'Afghanistan dopo, diciamo così, la caduta di Kabul. Le adesioni sono state amplissime, si è delineata diciamo una rete implicita di associazioni di donne, femministe, attiviste o comunque ONG che si occupano di cooperazione internazionale e che già da tempo lavoravano in Afghanistan. In seguito a questi comunicati c'è stata la disponibilità da parte della Farnesina di incontrarci per informarci, darci un quadro di quella che è la situazione attuale nel paese. Situazione ovviamente drammatica, con testimonianze anche molto forti. Voi che cosa avete chiesto? Le richieste sono state molto concrete, molto pratiche, perché è chiaro che il quadro complessivo del paese non si può ridurre a quello che sta succedendo in queste ore. La vicenda dell'Afghanistan è una vicenda che come Occidente ci scomoda parecchio e che richiederebbe dei tempi di riflessione differenti. Però noi abbiamo fatto richieste a partire dalla situazione di emergenza, abbiamo chiesto l'attivazione immediata di corridoi umanitari e abbiamo anche messo a disposizione quelle che sono le disponibilità, le competenze per un'accoglienza eventuale della popolazione afghana in fuga, con una particolare attenzione chiaramente alle donne, alle giovani donne, alle bambine, perché c'è un aspetto molto molto grave e pesante di cancellazione dei diritti fondamentali proprio relativi anche alle minori che sono nel paese. Le nostre richieste sono state ascoltate, però il quadro è veramente molto complesso e quindi purtroppo allo stato attuale delle cose sappiamo che siamo a livello di gestione dell'emergenza molto molto basilare, nel senso che in questo momento la difficoltà più grande è proprio quella di lasciare il paese, di arrivare all'aeroporto di Kabul, per capirci, perché è l'unico aeroporto, quindi l'unico punto di partenza per le persone che vogliono lasciare l'Afghanistan. Oltre a questo, avete immaginato anche un sostegno alle donne che resteranno nel paese? Sì, questo è l'altro aspetto molto interessante, perché chiaramente le ONG o comunque le associazioni di donne che hanno in questi 20 anni realizzato molti progetti, che sono poi stati progetti capillari, che sono entrati nei territori, nelle zone anche rurali, lontane dalla città, denunciano in questo momento una grandissima difficoltà, perché chiaramente c'è una sorta di cerca, chiamiamola con una parola tremenda, caccia alle persone afghane che hanno collaborato con queste ONG, alle stesse cooperanti. Quindi in questo momento anche la raccolta di fondi, che è una cosa che noi auspichiamo si possa realizzare, è una raccolta di fondi che però ha una difficoltà fondamentale, che è quella di capire esattamente a quali progetti che ancora si possono realizzare, a quali associazioni che ancora stanno operando sul territorio possono essere destinati, perché sappiamo, l'abbiamo letto e ci è stato anche confermato ieri, che molte associazioni sono state costrette a bruciare i loro archivi, a dar via documenti, perché c'è proprio un fattore di rischio altissimo per chi coopera e per chi collabora. Quindi è molto delicato il quadro della situazione attuale. Al momento però il sottosegretario non è stato in grado di fornirvi i numeri sulle persone che potrebbero essere accolte nel nostro paese. La questione dei numeri delle persone accolte è stata una questione sulla quale noi abbiamo posto subito la domanda, anche sottolineando l'importanza, secondo noi, di assumere una posizione da apripista dell'Italia in Europa e auspicando che poi l'Europa possa avere una posizione unitaria. Tuttavia la risposta è stata che in questo momento, più che una questione di numeri, c'è un problema oggettivo a far uscire le persone, cioè non è immaginabile un flusso ampio, perché l'apertura di corridoi umanitari prevede delle condizioni minime di accordo bilaterale che in questo momento non sono immaginabili. Quindi questo è il dato molto molto grave, molto pesante. Si lavora a quello, cioè si lavora con l'idea di arrivare a un possibile esito su corridoi umanitari o accordi che consentano alle persone di uscire, ma in questo momento non è così. È veramente difficile stabilire dei numeri. Come dicevi all'inizio, comunque voi appunto avete tradotto le vostre richieste anche in un appello che si può sottoscrivere, giusto? Esattamente, lo si può trovare sulle nostre pagine social, su quelle della Casa Internazionale delle Donne, perché l'appello è stato promosso dalla Rete Women, dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma e dall'Associazione Orlando. Quindi si può sottoscrivere sia come singoli e singole, sia come associazioni. L'abbiamo lasciato il più aperto possibile. Attualmente conta un numero di adesioni considerevoli, tante associazioni, moltissime associazioni di donne e anche tante persone singole. Io ti ringrazio e poi ovviamente seguiremo l'evolvere della situazione. Intanto grazie. Grazie, grazie a voi.